siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Reach out, touch faith. Un nostro ascoltatore sarcastico che dice: è giunto il momento di Stalin e olio. Non ho capito chi sarebbe Stalin e chi olio. Beh, forse entrambi. No, Stalin sei tu e olio perché ho la voce da papera. Però non hai la corpo, non hai le physique du rôle. Però. Ma il no non può vincere, questo è il titolo. In Lombardia vincerà sicuramente il sì. E allora è disposto a rischiare? Se è così sicuro. Gente concreta i lombardi. non abbiamo sentito perché veramente il telefono rifiuta la anche la domanda. Il telefono ha rigettato la sua risposta. Ma tu ti devi ritirare perché sei troppo bravo. Sei troppo bravo. Metti in difficoltà il raccomandato. Ma vi rendete conto che paese che è? Saluto il gattone Oscar Giannino. Eccoci qua. Oh, che bello, ti vedo, eh. Hai la pelata che è fosforescente stamattina. In questa terra di Sicilia, che come sapete è l'esagerazione dell'Italia. La Sicilia, nel bene e nel male, è tutto quello che c'è nella penisola. Quello che a nord è brutto, in Sicilia è bruttissimo. Quello che al nord è bello, in Sicilia è bellissimo. Ah, una bella definizione. La Sicilia come l'esagerazione dell'Italia. Non fare l'inglese, qua siamo in Italia. Ci sentiamo fra poco, cani con i gatti, grazie. Oscar, ti amo con 5 O perché ovviamente la condividiamo. Questo è un finanziere, attenzione. No. Oggi apriamo, popolo dei già svegli, buongiorno. Oggi apriamo nel nome di Giuseppa. L'avete sentito forse girare nei giornali, l'avete sentita nominare da Salvini. Se non l'avete sentita ve lo racconto io. È una signora di 94 anni cacciata dal container, dalla casetta che le era stata fatta dopo che la sua era stata distrutta dal terremoto. E su questo vogliamo piantare chiodo. Buongiorno a Mario Giordano, direttore del TG4. Buongiorno, buongiorno a tutti. È già sveglio dall'alba, anzi voglio dire da prima, non dorme mai, è un uomo che non dorme mai. Da quanto sei sveglio oggi, Mario? No, sono sveglio da mezz'oretta, dai, cominciando a dare un'occhiata ai giornali. Allora sentiamo insieme il fritto misto, così raccontiamo le cose che sono accadute e stanno accadendo in queste ore. Chiederete come mai ho in mano questa forbice. Sicuramente questa forbice non rappresenta la mia, così, il mio non è rappresentativo del mio stato d'animo, ma devo dire che se fossi ad esempio il genitore di quella ragazza che è stata violentata da quattro persone in una notte, probabilmente altro che forbice utilizzerei o vorrei utilizzare. Edoardo Mazza, sindaco di Seregno, agitava le forbici ed è finito ora ai domiciliari per corruzione. E sapete che lo scandalo di cui ieri ha parlato qui Roberto Maroni, il PM di Monza, Salvatore Bellomo, si dice basito per come veniva trattato. Guardate, io vi assicuro, sono rimasto basito, sono con le braccia che mi cascavano a sentire quello che voi magari non potrete mai vedere per sentire, perché voi vedete le carte scritte, ma i toni utilizzati da questo imprenditore che parla col sindaco come se fosse il suo zerbino sono veramente desolanti. Grande gospel, mentre Zingaretti e Pisapia, audio rubato alla festa dell'Unità, e sentite cosa dicono. Guardiamo tutti te, noi qua teniamo duro, però devo dire è sempre più dura. Pensate, il governatore del Lazio, uno dei più importanti dirigenti del PD, che dice a Pisapia, uomo di un altro partito, qua è sempre più dura. E c'è un eroe del giorno, Lupi, il ministro, l'ex ministro Lupi, ora neo leader di AlP, Alleanza Popolare, e si vanta e dice: ho spostato il PD solo gli ussoli. Se il Partito Democratico ha dovuto riconoscere e approvare alcuni contenuti di governo, di azione politica, Repubblica, che ovviamente non facevano parte del programma politico con cui si erano presentati. Penso per esempio all'IMU sulla prima casa, ve lo ricordate tutti, 7 anni abbiamo fatto la battaglia dell'articolo 18 e oggi invece abbiamo la riforma del Jobs Act. Questo è grazie ed è merito alla nostra presenza e al lavoro della nostra forza politica. E questo era Lupi, perché questa è una delle notizie del giorno, ne parleremo anche con Mario ovviamente, e però un'altra che si sfila in questo valzer di candidature, tempo di candidature come tempo di vendemmia, chi entra, chi esce, chi arriva, chi si candida, chi no, la Lorenzin si sfila e lo fa con molta simpatia. Ogni volta che c'è in ballo una candidatura sulla Regione Lazio, sul Comune, mi si mette il mio nome, che come dico sempre io sono come la Sora Camilla, tutti la vogliono, nessuno se la piglia, quindi... La Sora Camilla! Ma sentite la Meloni invece come si candida, veramente è un pezzo, qualunque cosa si pensi, è un pezzo proprio da letteratura del discorso politico. Diranno che non possiamo arrivare alla Presidenza del Consiglio, che io sono una donna, che sono troppo giovane anche se ormai sono una campana, che in ogni caso anche quando diventerò vecchia sono troppo bassa, che sono comunque troppo mamma, che sono troppo di destra, che Fratelli d'Italia è un partito troppo piccolo. Chiudiamo proprio col Salvini di ieri a carta bianca, improvvisamente ha sconvolto Bianca Berlinguer perché ha tirato fuori questa foto di questa vecchina con i capelli bianchi, ha detto attenti giù le mani su nonna Giuseppa. Questa è nonna Giuseppina, che potrebbe essere la mia nonna o la nonna di tanti italiani. Questa è una signora che col terremoto nelle Marche sta sull'Appennino Marchigiano, San Martino di Fiastra. Ha avuto la casa terremotata, quindi fuori. Nel suo giardino, a sue spese, ha costruito una casetta di legno. Sabato la buttano fuori. Ora io sono moderato, sono sereno, sto tranquillo, ma posso giurarvi che se qualcuno tocca nonna Giuseppina o la casa di nonna Giuseppina sarò molto meno moderato e devono passare sul mio corpo. Perché penso che gli abusi in Italia non siano la casetta di legno di nonna Giuseppina sull'Appennino Marchigiano. Allora 349-238-6666, Mario Giordano, siccome so che sei anche una macchina da guerra dal punto di vista giornalistico, alle volte sono i politici che ci segnalano le cose, posso avere le idee più distanti da Salvini, ma con tutto quello che c'è in giro, ma proprio la casa di nonna Giuseppina devono far fuori. Luca, della casa di nonna Giuseppina ce ne stiamo occupando da 10 giorni, abbiamo fatto dirette ripetute con nonna Giuseppa. Racconta. Non ce lo segnala Salvini. Dicevo Salvini. In questa puntata. No. Certo. Ma oggettivamente è una cosa scandalosa. Questa signora che ha 94, quasi 95 anni, viene buttata fuori di casa, come diceva giustamente Salvini, per una casa che si è costruita sul suo terreno, fra l'altro dopo aver chiesto tutti i permessi, siccome la burocrazia non faceva in tempo a dargli l'ultima firma, mancava una firma, non è che ha fatto la cosa di nascosto, avevano chiesto tutti per me, non arrivava l'ultima firma, siccome lei non poteva più stare nel container, voleva stare lì a casa sua, nel suo giardino, le hanno tirato su questa casetta di legno come ce ne sono tante, adesso si è intortata la cosa burocratica, perché siccome è stata costruita, anche se arriva se mettono quella maledetta firma che mancava, cioè anche se arriva il permesso è abusiva, adesso è abusiva e quindi va tirata giù. Entro sabato va buttata fuori. Ma in un paese in cui ci sono le case nella Valle dei Templi, in un paese in cui ci sono le case sul mare, nell'acqua, incompiute, proprio quella, Mario. Ma una cosa da pazzi. È uno scandalo. Tieni presente, oltretutto, questa povera signora ha avuto il permesso di stare in questa casa fino a sabato, poi sabato la cacciano fuori. E adesso, in questo momento, in quella casa non può entrare nessuno se non un parente indicato dal magistrato. Per cui persino il medico, per assistere, perché poveretta si sta già, non può entrare. Cioè è ai domiciliari. È ai domiciliari. In un paese in cui lo leggiamo anche stamattina sui giornali, uno che ammazza una fidanzata. Sì, questo ha avuto il braccialetto, dopo 2 mesi sta ai domiciliari. Dopo 2 mesi sta fuori, e invece nonna Giuseppina è condannata nella casetta e poi continua a ripetere: io voglio morire qui. È un paese folle. Ecco, dicevi sabato scade l'ultimatum? sabato scade, scadono i 15 giorni che le hanno dato dopo che appunto era stato sollevato il caso, sono stati dati 15 giorni di tempo per trovare una soluzione. Tra l'altro la regione aveva promesso di trovare una soluzione, ma ha proposto una soluzione folle, impraticabile. Sì, magari mandarla a Oslo in qualche alberghetto, non lo so. Sì, ma lei vuole morire lì, allora le hanno chiesto di tirare giù una serie di... insomma, non è proprio faticabile. E quindi le hanno fatto promesse, l'hanno pure illusa in diretta TV, l'hanno illusa che si trovava la soluzione. Adesso invece la conferma del pugno duro della... perché il nostro Stato, dove succede qualsiasi cosa, come dicevi tu, si costruisce fino in riva al mare, nella Valle dei Templi, dappertutto, si costruisce, però contro nonna Giuseppe lo Stato mostra il volto duro, il pugno duro dello Stato e delle regole nei confronti di uno che costruisce, ribadisco, nel suo giardino. 94 anni, giardino, 94 e che viene piangendo anni. Da 15 giorni davanti alle telecamere, ci chiede piangendo solo una cosa: io voglio morire, non chiede altro, è una vergogna. Continuerai a seguirla, ovviamente. Continuiamo a seguirla, guarda, ieri sera abbiamo mandato in onda, siamo andati ad assaltare l'assessore regionale, quello che aveva fatto la promessa. E cosa ha risposto? Ha risposto che lui aveva pensato una soluzione che poi non era praticabile, e poi come al solito è scappato via mandando due energumeni a pestare l'inviato, perché ormai è diventata la nuova moda, no? Dagli all'inviato, se rompe, fa le domande, ti mette di faccia le domande. Ce l'abbiamo visto anche nel caso del sindaco di Seregno, che hai fatto sentire prima, amano mostrare un volto in pubblico e un volto molto diverso in privato, perché le cose di Facebook che hai fatto sentire del sindaco di Seregno, questa durezza, no? Questo pugno duro, poi dopo a sentire le telefonate che lui faceva... Ecco, che impressione ti ha fatto queste telefonate? È giusta la lettura dello Zerbino, perché non sempre dobbiamo prendere dai PM come oro colato, però effettivamente sembra molto sottomesso. È peggio, ma quelle telefonate lì sono peggio dello Zerbino, cioè è veramente a servizio, cioè questo imprenditore gli dice esattamente i tempi, i modi, e lui per il fatto di essere in ritardo a presentare un documento, cioè, si umilia, si scusa, e poi dopo, cioè, è veramente imbarazzante. Quest'idea di peraltro non è che scopriamo oggi, purtroppo abbiamo già avuto diverse operazioni di 'ndrangheta nel nord, sappiamo che è molto diffusa, ma è che questa idea di fare San Luca a Milano è imbarazzante, tanto più se mi permetti che questa cosa di arriva, cioè noi abbiamo vissuto, io non so se è sfuggito, ma in 48 ore abbiamo visto, mi facevo prima l'elenco, quel sindaco Zerbino delle cosche che fa le cose delle cose, abbiamo avuto le cattedre truccate, cioè i professori universitari che pietrano, no, non importa che quello sia bravo, importa se è mio e se tu, abbiamo avuto gli sciacalli del terremoto, mamma quelli mia, che prendevano la residenza ad Amatrice. Sì, quella è l'altra grande notizia, sono due giorni che sto battendo, siamo rimasti sconvolti tutti, Mario, è che è bellissimo che ora vogliano dire restituiamo i soldi, ma non processateci. un'altra cosa scandalosa. Abbiamo avuto ieri, passata inosservata, ma altrettanto scandalosa, perché in un IMSS che con un IMSS che continua a chiedere arretrati pazzeschi, pensionati, addirittura abbiamo mostrato 60.000 euro. Ebbene, poi abbiamo 500 furbetti delle pensioni, italiani e stranieri che non avendone diritto si ciulano gli assegni minimi dell'INPS sottraendo risorse fondamentali. 500 scoperti solo ieri, 500, cioè che prendevano l'assegno minimo, quella pensione minima, senza averne diritti, senza aver mai versato un soldo di contributo o vivendo all'estero. Ecco, il quadro di un paese imbarazzante, e poi che poi mostra il pugno duro contro Giuseppe di 94 anni. Mamma mia. Io non lo so, ogni tanto mi resto basito. E una buona notizia nel mondo, però, da commentare: le donne in Arabia Saudita potranno guidare. Sì, vabbè, ho capito, è una buona notizia perché arriva finalmente, però segna ancora l'enorme distanza di un mondo che deve ancora recuperare, che deve da questo punto di vista recuperare moltissimo, quindi è una buona notizia per modo di dire, cioè è una cattiva notizia che sia una buona notizia. Fabio da Arezzo ci scrive: di a Mario, tu ricordate che la signora se l'è pagata coi suoi soldi, lo abbiamo ricordato. gliel'avrebbe dovuta comprare lo Stato, è vero. L'ha pagata, costruita sul suo terreno, con i suoi soldi, e ribadisco, perché in mezzo a tanti furbetti uno diceva: vabbè, ma hai costruito la casa? No, loro hanno chiesto tutti i permessi da mesi, hanno chiesto, so che mancava questa, cioè la colpa non è di una cosa che non aveva fatto, la colpa è del fatto che c'erano ritardi, che per avere quella maledetta firma ci vuole, al solito ci vogliono mesi, anni. E poi anche qui, permettimi, non sarà questo il caso della nonna Giuseppe, ma la burocrazia, non è un caso che ci sia la burocrazia in Italia, perché noi ogni tanto pensiamo che la burocrazia sia un destino cinico, ma la burocrazia c'è perché, come ci dimostra il caso Seregno, come ci dimostra il caso dell'università, c'è la burocrazia perché c'è la corruzione, cioè non ci siccome sono come non hai diritti se diventi ricattabile, certo, diventi in balia, e allora per chi vuole, guarda, ci sono alcune intercettazioni di Mafia Capitale a questo proposito che erano esemplari, dice: ma quanto ci vuole per avere quel permesso? Ma in media ci vogliono due anni e mezzo, ma se io voglio posso averlo in 2 ore. Questa è la burocrazia, c'è per questo motivo, mica per altro. Chain of Fools, Aretha Franklin, sentiamo, alza un frammento e andiamo nelle strade e poi torniamo con Mario Giordano, alza un grido della mitica Aretha, ecco, siamo arrabbiati per la nonna, siamo arrabbiati. Questa è nonna Giuseppina. Mattino. I già svegli. Innanzitutto complimenti, siete eroici, già svegli tutte le mattine, veramente. Sono già sveglio per dare ai miei clienti una buona tazza di caffè, una brioche, un po' di burro e marmellata, e per rendere il loro mattino un po' più gradevole prima che loro vanno a lavorare. Ma io purtroppo comincio prima di loro. Buongiorno, mi chiamo Mariangela e sono sveglia perché quando ho dormito 5 ore a me bastano, no, e dopo vado avanti a leggere e a ascoltare giornali radio la mattina presto. Presidente. Buongiorno. Della regione Lombardia, che voce squillante, lei si sveglia presto, presidente? Ah sì, assolutamente sì, bisogna essere in forma già al mattino presto in Lombardia, se no. E quando era a Roma un po' più tardi, no? Sono altri ritmi. Ciao, sono già sveglio per andare a lavorare, per mantenere questo apparato di parassiti che vuole sfruttare noi lavoratori. Eccoci, erano i già svegli del giorno. Mi piace, Maroni dice bisogna svegliarsi presto in Lombardia, anche nel resto d'Italia, presidente. Ma comunque 0246 524 4492, se volete partecipare a questa nostra grande indagine su perché l'Italia è già sveglia. Mario, sei sempre lì? Sono sempre qui, sono sempre qua. Ieri una ricerca diceva che bisogna dormire almeno 8 ore per vivere a lungo. L'ho letta. Ma sai che c'è un'applicazione dell'iPhone che è partita in cui tu imposti l'ora in cui vai a dormire e loro ti regolano il ciclo di tutta la vita, compresi i giorni della settimana, lunedì, martedì, e ti danno 8 ore d'ufficio. Non siamo più neanche liberi di essere insonni. Però voglio entrare perché qui mi serve la tua sapienza. Non so se già l'hai letto, ma Mattia Feltri fa un po' le bucce ai giornalisti. Dice: siamo stati un po' superficiali su Amatrice perché abbiamo ceduto al fascino della polemica sui soldi degli SMS. Alla fine, dice lui, verificando, non è vero che i soldi non andavano ad Amatrice, non è vero che sono andate a opere fuori dal terremoto. No, lui dice che non il pelo nel cratere. Ecco, dice. Lui dice che non è vero perché Pirozzi ha denunciato la pista ciclabile. È vero che la pista, cioè questi famosi 33 milioni dati con gli SMS da tutti gli italiani. Pirozzi dice: dove sono finiti? E cita una pista ciclabile. La pista ciclabile c'era, è stata tolta dai progetti finanziati dalle regioni attraverso i fondi della protezione civile a inizio luglio, ma proprio perché era stato sollevato lo scandalo ed erano stati tolti. È vero che c'è una scuola di Collecchio vicino a Roma che è fuori dal cratere, ma dice Mattia Petti, vabbè, è una scuola fuori dal cratere, però è stata danneggiata. Ma tutto questo però, Luca, permettimi, non toglie di una virgola il peso della denuncia di Pirozzi, perché io credo che quegli italiani che hanno versato quei 33 devono andare ad Amatrice. Non solo devono andare ad Amatrice, ma devono andare a aiutare i terremotati che ancora oggi vivono negli hotel sul mare, che ancora oggi vivono lontano dalle case, mentre invece questi 33 milioni, 5 sono ancora completamente fermi e gli altri sono stati assegnati a progetti tipo strade, eliporti, che non sono così strettamente essenziali. Cioè, io credo che sia anche necessario rispondere alle esigenze, perché mi chiedi i soldi sulla base dell'ondata emotiva, io te li do e voglio che i terremotati siano aiutati. Grazie questo, Mario. Ci sentiamo presto, torna presto, sei sempre prezioso, ci sentiamo perché ora un altro ospite. E buongiorno a Roberto Speranza, leader di MDP, ovvero del Movimento dei Democratici e dei Progressisti. Come funziona intanto la divisione dei ruoli fra lei, Bersani e D'Alema? Come si sente? Un po' come il boss e la matricola? No, io sono il coordinatore di questo movimento, Bersani e D'Alema sono due militanti innamorati di questo movimento. E sveglio presto sempre lei, Speranza? Ma sempre no, diciamo la verità. Oggi sono sveglio presto perché è una giornata molto intensa. Però vedo che attivo la mattina, rassegna stampa, Twitter, insomma è al bioritmo accelerato, no? Ci tocca leggere i giornali all'alba e anche ascoltare qualche trasmissione radiofonica. Senta, mi pare che ci sia un grosso tema sulle alleanze per voi. Qualcuno dice dobbiamo comunque essere alleati al PD di Renzi, e se ci fosse una nuova legge elettorale che proposta in queste ore introduce le coalizioni, cosa fareste? No, parlare di alleanze senza parlare di merito non ha senso. Ci si allea per fare delle cose. Se si tratta per esempio di togliere l'articolo 18, noi non ci siamo. Se si tratta di togliere la tassa sulla casa anche a un miliardario in un paese in cui gli italiani non si curano, per noi non va bene. Se si tratta di dire viva le trivelle e non investire sulle questioni dell'ecosostenibile, noi non siamo d'accordo. Quindi lei è rimasto male per quel ciò. È impossibile parlare di alleanze senza partire dal merito. Dica la verità, lei è ancora arrabbiato per quel ciaone che le ha dato tanto fastidio, quello di Carbone sul referendum, sì, delle trivelle? Sono molto arrabbiato perché quel giorno votarono 15 milioni di italiani, quasi tutti votarono sì, fu un momento importante di partecipazione e il più grande partito del paese in cui allora militavo, la sera, anziché apprezzare quella partecipazione democratica, ha detto ciaone in spregio a chi quella mattina era andato a votare. Quindi il ciaone è una filosofia di vita o politica che ha superato anche quel momento, che ancora pervade il PD secondo lei nella vostra battaglia? È l'idea che non ti interessano le opinioni dell'altro, che sei così convinto delle tue che alla fine l'opinione dell'altro non ha senso. E quando quell'altro sono 15 milioni di persone, poi il prezzo lo paghi, e credo che il prezzo sia stato pagato al referendum successivo sulla riforma costituzionale. Senta Speranza, non sia, come dire, rituale nella risposta. Ha visto che Antonio Di Pietro ha detto voterò MDP e porterò anche la bandiera. È contento di questo endorsement o no? Io sono contento di chi porta la bandiera. Per me le bandiere non sono qualcosa di cui vergognarsi, sono la nostra identità, sono qualcosa di positivo. Noi vogliamo costruire un campo largo di centrosinistra. Benvenuto chi voglia di portare la propria bandiera con le sue idee. Una grande apertura a Di Pietro. Perché no? Benvenuto, bene. E ora lo andremo a consultare e sentire su questa sua opinione. Senta, le feste dell'unità sono incredibilmente, da un anno all'altro sono passate da macchina da soldi a macchina da deficit. Le vorrebbe rottamare oppure no? Ma intanto le feste dell'unità sono in crisi perché lì c'è un giornale che non è più in edicola. Sì, è l'unità senza l'unità. Uno dei risultati della segreteria Renzi è che quel giornale non esiste più nelle edicole italiane e questo mi fa molto soffrire. Che cattiveria, c'è un popolo che non c'è più. Cioè sta dicendo è colpa anche della segreteria Renzi se l'unità non è più in edicola? Beh, è chiaro, il PD è un azionista di riferimento di quel giornale, quindi la responsabilità è molto chiara, evidente sotto gli occhi di tutti. Ma se la sentirebbe di dire io datemi la testata, datemi quelle feste, io e noi, intendo come MDP, le faremo rinascere? Ma guardi, per noi le feste dell'unità e il simbolo dell'unità è un pezzo di identità. Forse a Renzi e Company interessa poco, a noi invece tocca, perché è un pezzo della nostra storia, della nostra identità. Io sarei contentissimo di poter restituire quel marchio al suo popolo, alla sua gente. Qualcuno dice: sono una storia che è finita, però non possono più risollevarsi, non esiste più quel mondo, Speranza. Qualcuno vi dice così? Cosa vuoi andare a fare con le feste dell'unità? Sono gli anni 50. Disuguaglianze. Per me quella battaglia lì è sempre aperta. Essere di sinistra, di centrosinistra, significa costruire un mondo più giusto, battersi per l'equità, per l'allargamento dei diritti. Ora, l'unità è un simbolo, è un nome, però dietro quel simbolo ci sono dei valori che per me non si esauriscono oggi, anzi, oggi sono più attuali del passato. Come mai, facendo una festa come lei l'ha fatta recentemente anche nella sua città Potenza, non avete ancora adottato quel nome? Per una questione di copyright o perché avete... La festa del lavoro, perché l'unità è un marchio registrato che è proprietà di qualcuno e in modo particolare in questo momento è proprietà del PD. Solo che il PD ha la responsabilità di non far andare quel giornale in edicola e le feste dell'unità si sono svuotate. È la stessa ragione per cui 4 anni fa le primarie votarono 3 milioni di persone, quest'anno hanno votato 1,8 milioni. Quindi lei si sente di dire: mi metto davanti a un tavolo con Renzi e gli chiedo, cedimi a me la possibilità di continuare quella storia, io ne sono orgoglioso, porterò la bandiera? Quella non è la sua storia, non credo che Renzi abbia un atto di faccia un atto di generosità così forte, ma sarebbe la scelta più giusta, ecco. Grazie a Roberto Speranza, chissà se questa proposta susciterà polemiche o entusiasmi, lo scopriremo insieme. Buongiorno. Grazie mille, buona giornata a tutti.